Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, un'altra puntata con ospiti in studio. Stavolta abbiamo una band veronese che presenta il suo nuovo disco. A voi la parola, ragazzi, per una breve presentazione. Ciao, noi siamo i Metodica di Verona. Io sono Massimo, il cantante. Io sono Marco, il tastierista. Io Marco, l'altro Marco, il batterista. Mancano gli altri due componenti, che sono Alessandro al basso e un altro Marco ancora alla chitarra, che per problemi di lavoro sono rimasti a casa. Li salutiamo, ciao. Ciao. Con i Metodica, un salto nelle prime due parti nella storia del prog rock degli anni 70. Abbiamo iniziato con gli Atomic Rooster, un trio guidato all'epoca dal tastierista Vincent Crane, che abbiamo sentito nel brano Tomorrow Night, tratto dal disco That Was Behind You del 1970. La parola è Metodica per la solita impressione sul brano o su questa storica band. A me è piaciuto molto l'assolo di tastiera di Hammond, che era molto in uso negli anni 70. Adesso si è perso un po' questa cosa. Ci sono solo gli devi chiedere al tuo tastierista queste cose. Un bravissimo tastierista sicuramente, Vincent Crane. Da quello che so, però, è anche stato un po', aveva il suo caratteraccio, perché esatto, attorno a lui sono cambiati tantissimi musicisti, tra cui Carl Palmer di Emerson, Lake & Palmer, che ha suonato prima di suonare negli Emerson, Lake & Palmer. Esatto. Un pessimo carattere a quanto fa. E ahimè è morto anche. Ah sì? Esatto. Da molti anni. Metodica hanno una storia lunga e osiamo dire travagliata. Quando nasce la band e il significato del vostro nome? Allora, la band è nata nel 96, poi ha avuto molti cambi di line up, gente che è entrata, gente che è uscita. Abbiamo fatto fatica anche a trovare il chitarrista, ne abbiamo passati molti e alla fine siamo riusciti a trovare appunto Marco Ciscato, che adesso qua non c'è, e finalmente con lui siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di lavoro ben affiatato, e finalmente siamo riusciti anche a pubblicare questo disco. Anni di concerti, di problemi più o meno grossi all'interno della band, non solo caratteriali ma proprio anche logistici e musicali anche. Ecco, da dove è nato il nome? Beh, il nome allora è stato scelto dal nostro batterista, qui presente. Che speravo di non parlare, ma vedo che adesso lo spieghi come è nato il nome. Niente, semplice, proprio è stato un caso, nel senso che penso a un nome, e mi è venuto in mente un po' questo Metodica, proprio riferito un po' a questo tipo di musica, nel senso proprio di cose complicate, mescolate a cose più semplici, fluide, proprio un vero e proprio metodo di far musica. E poi sinceramente l'H tra la T e la O è stata aggiunta un po' per eleganza, insomma, diciamo così, però ecco, un modo molto semplice, suonava bene, ecco, tutto qua. Continuando il viaggio nel prog rock, ci imbattiamo nei Beggars Opera, ensemble prog scozzese meno noto ma di grande originalità e bravura. Dal loro secondo disco Waters of Change del 1971, il brano che apre il disco Time Machine. Thank you. dicevamo, una band di grande originalità e bravura. È metodica la parola. Molto, molto bravi, molto originali. Belle le sonorità, bello la commistione tra tastierista e melotronista. Infatti loro avevano un tastierista e una melotronista, e questo creava questo sound molto pieno. Mi ricordavano anche un po' i Genesis del primo periodo. Bravi, tra l'altro, se non sbaglio, loro reinterpretavano i brani della musica classica. Sul primo disco ci sono alcuni medley. Esatto, e anche il loro nome, tra l'altro, arriva da un'opera del 1700, giù di lì. Comunque, bravi, mi è piaciuto molto. Sì, no, non da meno anche il loro tastierista Alan Park, non da meno del tastierista prima Vincent Crane degli Atomic Rooster. Forse aveva un carattere un po' migliore, magari. Io parlavo a livello musicale, sì. Ovviamente. Influenze musicali della vostra band, quali sono e quanto incidono in fase compositiva? Molto, molte e molto diverse. Partiamo, le band progressive degli anni 70, le classiche Genesis e così via, Emerson, Lake & Palmer, poi anche Rush, King Crimson. Esatto, poi il prog degli anni 80, quello moderno, Dream Theater e così via. Poi anche le band metal, tipo Metallica, Megadeth, che piacciono di più al nostro tastierista, per dire, oppure a me, che piacciono molto gli U2. Ci sono queste cose diverse che si mescolano assieme, che danno un po' questo stile. Si sente molto in fase compositiva. Mm-hmm. Cioè, chi pesta di più, chi pesta di meno. E poi guarda, secondo me, onestamente, per chi fa prog, una cosa importante sarebbe proprio quella di azzerare un po' i livelli, nel senso che bisogna essere proprio preparati su tutti i generi. E allora va bene che ci sia anche chi fa metal, cioè va bene anche chi canta U2, però bisogna essere capaci di inserire questi particolari nel momento giusto. È l'incontro. Questo crea i colori giusti che distingue la musica prog da quella che può essere un rock o un metal o quello che si pensa, insomma. Per chiudere questa parte con ancora prog rock, i Curved Air, risorti l'anno scorso per volontà di tre dei cinque membri originali, li risentiamo nel disco Second Album del 1971 con la magica voce della cantante Sonia Cristina, futura moglie di Stuart Copeland dei Police, con il brano Backstreet Love. Noi ci ritroviamo per la seconda parte. Summer's coming, time.